talpe probabilmente ce n'è stata più di una, anche sul nostro territorio. Milano come Reggio Calabria, quando la 'ndrangheta vive anche con l'aiuto degli uomini di Stato. Questa settimana entriamo nella zona grigia delle cosche e cercheremo ancora una volta di dare a ciascuno il suo. Appuntamento sabato alle 8:30. Ciao a tutti, da Raffaella Calandra.